Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Alain El Khan e Franco Di Mare. Come direte voi, questa volta sono ben due gli opinionisti estemporanei. Ebbene sì, due per una puntata speciale, quella dal Salone del Libro di Torino, dove siete tutti invitati. Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.